Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Ossimori di Calabria, puntata speciale delle storiacce. Vi riproponiamo parte dell'incontro di sabato scorso al Salone del Libro di Torino tra Raffaella Calandra e il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri. 44 miliardi di fatturato, 132 gruppi per circa 10.000 affiliati. È la mafia più ricca del mondo nella regione più povera d'Europa. È la mafia dei pastori e dei broker internazionali. È la mafia che ha saputo ingannare con ogni mezzo, a cominciare dal suo nome, 'Ndrangheta, un etimo che sa di virtù e di coraggio. Abbiamo intitolato questo incontro Gli ossimori di Calabria, perché è di contraddizioni che vive la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta è la mafia più dura, più cruda e più asciutta, perché ha sempre cercato di mimetizzarsi. La sua forza è soprattutto nella famiglia, nella struttura patriarcale. Due o tre famiglie patriarcali formano un locale che è l'organizzazione base della 'Ndrangheta. Anche nella stagione dei collaboratori di giustizia la 'Ndrangheta ne ha avuti meno di 50 e nello stesso periodo Cosa Nostra più di 1.000 e la Camorra più di 2.000. Allo stesso tempo la 'Ndrangheta è riuscita negli anni a diventare ricca perché ha intercettato il traffico di cocaina. La cocaina è appunto, come diceva il procuratore, il principale degli affari della 'Ndrangheta, che su questo ha il monopolio, dopo che per anni, fino al 92, ha costruito il suo impero sui sequestri di persona. Il procuratore Gratteri nelle sue indagini è stato anche dall'altra parte dell'oceano, è stato anche in Messico e, come racconta anche nel suo saggio, nella città laddove la cocaina si contratta. Sono stato anche in Sud America, dove ci sono uomini della 'Ndrangheta che sono dei broker che discutono il prezzo della cocaina come se fossero delle azioni, e il prezzo più basso che sinora abbiamo sentito è stato di 1.200 euro al chilo. Considerate che da un chilo di cocaina si fanno fino a 4,5 kg di cocaina, perché è tagliata, e quindi se un chilo è costato 1.400-1.300 euro, da un chilo si fanno 4,5 kg. Poi un grammo qui a Torino costa 50 euro. Noi non riusciamo a sequestrare in Europa più del 10% della cocaina che arriva, che per farla arrivare bisogna aggiungere altri 2-3 punti in più rispetto al prezzo base, che abbiamo detto è di 1.200-1.400 euro massimo. E se queste cifre non bastassero ancora, considerate che i soldi li contano a peso. C'è stata una intercettazione importante che ha svelato tutto un mondo degli affari della 'Ndrangheta in una dimensione ben più internazionale. Subito dopo la caduta del muro di Berlino, un'intercettazione ascolta due persone che si dicono: ora bisogna comprare. Cosa? Chiede l'altro. Tutto. Un'altra inchiesta milanese ha svelato come dei pastori, dei semplici pastori anche analfabeti, fossero stati utilizzati come prestanomi per l'acquisto di una banca in Svizzera. Procuratore, è qui che soprattutto i boss della 'Ndrangheta portano le loro ricchezze nel cuore dell'Europa? Guardi, intanto lei accennava prima agli appalti. La 'Ndrangheta è molto presente nell'edilizia, nel trasporto di inerti, nella lavorazione del calcestruzzo. La 'Ndrangheta è presente nell'edilizia a qualsiasi livello. Una famiglia di 'Ndrangheta, un capo locale, interviene anche per la ristrutturazione di un marciapiede. Non solo e non tanto per guadagnare la mazzetta del 4%, ma anche per far lavorare 5 operai 20 giorni, i quali operai si ricorderanno del capomafia quando bisognerà andare a votare. Cioè sarà il capomafia a indicare poi il candidato prescelto. È ovvio che questi soldi poi vengono investiti, ma al nord, in Europa, ci sono paradisi fiscali, ci sono posti in cui le leggi nel contrasto al riciclaggio quasi non esistono, e ci sono degli uomini che lavorano per conto della 'Ndrangheta. C'è gente molto esperta in materia di finanze, e la 'Ndrangheta investe in Europa, compra alberghi, ristoranti, pizzerie. Il problema della 'Ndrangheta, il diritto della 'Ndrangheta, non è quello di arricchirsi perché è già ricca, ma è quello di giustificare la ricchezza. Stiamo parlando ovviamente del diritto della 'Ndrangheta, perché la 'Ndrangheta è presente anche in Sud America, anche in Sudafrica, nell'America del Nord, del Sud, in Australia, ovunque. È una mafia che è presente in tutti e cinque i continenti. Una mafia che ora preoccupa particolarmente in vista anche dei grandi affari che si svolgeranno intorno all'Expo a Milano. Posso dire in generale che ci sono locali di 'Ndrangheta, organizzazioni dell''Ndrangheta, cloni di quelli che ci sono in provincia di Reggio Calabria, in tutto il nord Italia. È ovvio che l''Ndrangheta non sta a guardare quando bisogna arricchirsi, quando bisogna costruire e investire. Io penso che di sicuro ci saranno delle infiltrazioni in queste grandi opere. È ovvio che comunque queste opere, se il potere politico decide di farle, devono essere costruite. Bisogna creare un sistema giudiziario forte tale da impedire che le mafie siano presenti e che si infiltrino, che entrino in queste grandi opere pubbliche. Sinora ci sono sempre riuscite. Ora vediamo cosa succederà per l'Expo o per il costruendo ponte di Messina, che mi pare oggi sia molto lontana l'inizio della realizzazione, perché ancora non ho visto nulla lì se non quello di l'accaparramento dei terreni dove dovranno essere costruiti questi piloni. Siamo a Torino, anche in questa città in passato la 'Ndrangheta ha lasciato anche drammaticamente il suo marchio. Il Piemonte è una delle regioni maggiormente occupate della 'Ndrangheta, dove c'è una fortissima presenza della 'Ndrangheta, in particolare già dalla metà degli anni 70, dopo che la Procura di Torino ha fatto l'indagine sul clan dei Catanesi e ha quasi sgominato il clan dei Catanesi, si è insediata la 'Ndrangheta, in particolare quella della zona ionica, ed era talmente forte e arrogante al punto che ha osato uccidere il procuratore di Torino, il procuratore Caccia. Volevo un attimo tornare ancora sulla ponte. Lei una volta già ebbe occasione di dirci che già quando lei era giovane sua madre le diceva si costruirà il ponte di Messina, e qualche anno dopo siamo ancora a parlare di questo, però anche una ex boss di mafia ha detto proprio a noi che dei segnali di interesse tra le due sponde ci sono già stati. Che tipo di segnali? Così come stanno le cose con queste regole, se si dovesse costruire il ponte, metà lo costruirà la 'Ndrangheta e metà lo costruirà Cosa Nostra. Oggi, malgrado le apparenze, le mafie sono più forti di quelle che si vuole dire. Ma la 'Ndrangheta, al contrario di quanto si pensi, è anche una mafia fatta di codici e anche una mafia fatta di pizzini. Ora ve ne facciamo ascoltare uno. La donna, sia essa familiare o fiancheggiatrice di un affiliato, è in ogni caso sottomessa alle decisioni della famiglia, anche se essa non potrà mai essere un'affiliata. Nel caso in cui si organizza una riunione di 'Ndrangheta nella sua abitazione, essa non sarà mai presente, ma avrà solo la funzione di vivandiera. La donna di un affiliato non manifesta mai curiosità sulle decisioni o attività del suo uomo, ma tacitamente si adegua al proprio ruolo. Procuratore, questa è una trascrizione di un codice sequestrato nel covo del super latitante Chilà. Si parla del ruolo della donna, è ancora così o nel tempo, diciamo, il ruolo delle donne è assolutamente subalterno rispetto alle decisioni delle cosche è cambiato? La presenza delle donne nella 'Ndrangheta è aumentata, nel senso che le donne apparentemente non hanno un ruolo attivo, però sono molto importanti, sono ad esempio nelle faide, quando sono le guerre tra due blocchi di famiglie, sono il motore delle faide, sono il catalizzatore, sono quelle che caricano gli uomini come una sveglia per andare ad uccidere. Certo, nelle mafie che si conoscono nel mondo, ad esempio in Colombia, in Venezuela, in Messico, è facile trovare a capo di un'organizzazione criminale una donna. In Italia no, nella 'Ndrangheta è difficilissimo. Però ci sono anche delle donne che hanno un ruolo. Noi abbiamo avuto anche delle intercettazioni telefoniche dove la figlia di un capo mafia dice: io non ho bisogno di essere battezzata, di avere il taglio della coda, perché io già sono 'ndranghetista per discendenza. Però si tratta sempre di ruoli marginali. Il ruolo centrale della donna lo si ha nelle faide. Su 7.909 persone che dal 99 al 2005 sono state coinvolte nelle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, bene, su queste 594 soltanto erano donne. Ma di un'altra donna recentemente si è parlato. Avrete visto tutti le immagini della cattura del super latitante abitante di 'Ndrangheta, Tegano, e in quelle immagini le telecamere hanno inquadrato una donna che urlava: quell'uomo è un uomo di pace. Quelle persone che erano lì davanti la questura erano soprattutto parenti e amici. Tutto ciò si poteva evitare dal punto di vista visibile, perché bastava che il detenuto fosse portato a -1, dove ci sono i garage, si metteva in macchina e si poteva in carcere. Ha detto uomo di pace perché quell'uomo ha vissuto l'intera guerra, la prima e la seconda guerra di mafia Reggio Calabria, ha contato quasi 1000 morti, e sosteneva che lui era un uomo di pace, un pacifista rispetto alla gente che ammazzava le persone come le galline. Questo non è neanche vero, perché se lui è stato condannato all'ergastolo vuol dire che qualcuno ha ammazzato. Il dato vero è che la gente crede poco in noi, che noi ancora non siamo credibili, perché noi ancora all'interno delle istituzioni sono molte smagliature, perché non siamo efficaci ed efficienti come dovremmo essere, ma soprattutto noi avremo bisogno di un sistema giudiziario diverso, più forte, in modo tale da dimostrare che delinquere non conviene. Ossimori di Calabria, puntata speciale delle Storiacce. Vi riproponiamo parte dell'incontro di sabato scorso al Salone del Libro di Torino tra Raffaella Calandra e il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri. Se ancora avessimo bisogno di una cifra per indicare quanto profonda e quanto radicata sia l'Ndrangheta in terra di Calabria, su quasi 8.000 persone affiliate appunto all'Ndrangheta, il 43% non raggiunge i 45 anni e c'è un 15% che va dai 18 ai 30. L'Ndrangheta è una popolazione di affiliati molto, molto giovane, anche perché nell'Ndrangheta si entra già a 14-15 anni e diventa picciotti già a quell'età, e ogni 'ndranghetista ha 5-6 figli che a loro volta fanno altri 5-6 figli. Vedo i giovani di oggi cambiati, migliori anche di quelli di 10-15 anni fa, disincantati da quelli che possono essere gli slogan pubblicitari o certe informazioni. O anche certi codici come quelli che la 'Ndrangheta usa mettere nero su bianco. Vi coprisco di rose e di fiore. Vi garantisco per uomo d'onore alla mia spalla. Vi voglio portare con coltelli e con senza nessuna trascuranza. Se oggi in poi trascurerai, col sangue la pagherai. Umiltà bella, come mi insegnasti, pieno di rose e fiore mi copristi. Alla nostra spalla, tre specialità di uomini non possono appartenere. Sbirri, infami e quelli che fanno lavori speciali. Giusto appunto questa mattina mi incontro con un soldato col cuore di leone e con un pugnale in mano per incontrare la sedia di recluso e quella sedia camorrestale. Che cos'è questo, procuratore? Un rito di affiliazione che avviene tra l'affiliando, che è un contrasto onorato, e il capo locale. Questo dialogo si chiama baccaglio. Nella sostanza, durante il rito di affiliazione, che voi avete visto sicuramente spesso nei film, ci si buca il dito e cade un po' di sangue sull'immagine di San Michele Arcangelo, e mentre questa immagine brucia, il senso poi di tutto il rito di affiliazione è che da quel momento tu dovrai uccidere tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella, se necessario, pur di preservare l'Ndrangheta. Procuratore, c'è un legame tra questi riti? Li abbiamo sentiti anche così ridondanti, così retorici. C'è un legame tra questa ritualità e la presenza e la diffusione della massoneria? Guardi, a metà degli anni 70 c'è stata la creazione della Santa, che era un nuovo rito di affiliazione che serviva sostanzialmente a creare un'elite dell'Ndrangheta. Con la creazione della Santa c'è stata la possibilità che un 'ndranghetista potesse entrare a far parte della massoneria deviata, entrare e quindi avere la doppia affiliazione, la 'ndrangheta e la massoneria deviata. Entrare a far parte della massoneria deviata vuol dire avere contatti con medici, ingegneri, avvocati, con i quadri della pubblica amministrazione. A quel punto sedersi attorno al tavolo e non discutere più chi deve vincere l'appalto, ma se l'opera pubblica deve essere costruita o meno. Gestire, ad esempio, se quell'area, quella zona agricola deve diventare zona industriale o zona edificabile, comprata abilmente poco prima dal capo mafia. La presenza della massoneria deviata è molto forte nell'Ndrangheta, sì. Quindi questo vuol dire determinare anche il destino di una regione e della sua gente? Certamente, sì. Parlavamo di pizzini e l'abbiamo anche fatti ascoltare, è un termine che ormai è entrato anche nel dominio collettivo, anche se associato soprattutto alla mafia e a Cosa Nostra, però come abbiamo detto prima è soltanto un problema di conoscenza e di comunicazione, perché anche le cosche dell''ndrangheta utilizzano questo sistema per comunicare. Che tipo di comunicazioni c'erano in quei pizzini? Si parla o si inviano messaggi quando è assolutamente necessario, soprattutto chi è latitante, chi ha un certo peso, chi ha una grossa responsabilità nell'organizzazione. Ci sono messaggi di morte o messaggi di affari, di determinazione della tangente su una grande opera pubblica o su chi deve vincere l'appalto o meno. Si è detto più volte che una delle forze dell''ndrangheta è il fatto che sia costituita in tanti piccoli nuclei, eppure però questa stessa struttura così sbriciolata, potremmo dire, ha avuto anch'essa una sua evoluzione. Si va verso la costituzione di una forma di cupola, si chiama provincia? Esiste in montagna a Polsi una riunione annuale dove i capi locali, i rappresentanti dei capi locali, si presentano all'uomo che coordina tutti i locali di 'ndrangheta del mondo. Esiste quindi una struttura sovraordinata che è una sorta di direttorio che interviene quando bisogna parlare di problemi strutturali. Queste strutture discutono ad esempio anche l'apertura o la chiusura di un locale di 'ndrangheta, di un'organizzazione ad esempio per indegnità. Quando ad esempio in un locale di 'ndrangheta c'è una faida, interviene questa provincia per determinare la chiusura. Si vedono a Polsi, che è questo santuario nel cuore della Calabria, ma da quel posto si prendono spesso delle decisioni che vanno ben al di là dei confini della Calabria. E per restare un po' in questa zona, siamo a Torino, ma poco distante da qui, anche in Liguria, in una perquisizione furono trovate tracce di un codice dell''ndrangheta. C'è una presenza abbastanza significativa anche in Liguria, come nel resto dell'Italia del Nord. Ecco, procuratore, abbiamo a lungo parlato della lunga sottovalutazione dell''ndrangheta, che però ha catalizzato su di sé l'attenzione collettiva dopo una serie di fatti drammatici. La bomba fatta trovare davanti alla Procura Generale di Reggio Calabria, o ancora l'auto con esplosivi e con armi che è stata trovata nel giorno della visita del Capo dello Stato, del Presidente Napolitano a Reggio Calabria. Che tipo di messaggi sono questi? Sono degli episodi che devono essere tenuti distinti, perché altrimenti facciamo il gioco dell''ndrangheta. Adesso è di primaria interesse nel dibattito politico la riforma delle intercettazioni. Lei dice che le intercettazioni, al contrario di quanto si ritenga, siano anche il sistema più economico per combattere le mafie. Sì, le intercettazioni sono il mezzo più economico, perché se io voglio sapere una persona da Reggio Calabria a Roma in quale casa entrerà, io ho due possibilità: o faccio un pedinamento con 3-4 macchine, quindi con almeno 8-10 poliziotto, carabinieri o finanzieri, oppure intercetto il cellulare. Se io faccio un pedinamento da Reggio Calabria a Roma mi costa almeno 2.000 euro. Se io metto sotto controllo il telefono mi costa 11 euro più IVA. Questa bozza di riforma dell'uso delle intercettazioni sarà un grosso passo indietro nella lotta alla criminalità organizzata e alla criminalità in genere. L'unica cosa sulla quale sono d'accordo è limitare la divulgazione delle intercettazioni sui giornali, perché quasi sempre ciò che esce sui giornali è il gossip. Avete provato in qualche modo anche a veicolare la vostra opinione? Io sono il consulente gratuito di tanti parlamentari, sia di destra che di sinistra, mi domandano la mia opinione, però poi è ovvio che ci sono forse interessi superiori e maggiori. Procuratore, in questi giorni conquista giustamente titoli importanti le novità su una inchiesta siciliana, che è quella del fallito attentato della DAO, il fallito attentato a Giovanni Falcone. Novità perché ci sono stati nuovi indagati, anche nel suo libro riferisce di come a un certo punto ci potesse essere stata la possibilità di uno scambio tra Cosa Nostra, quindi la mafia, e l''ndrangheta, uno scambio tra cocaina e tritolo, tritolo che forse potrebbe essere stato utilizzato nella strage di via D'Amelio. Intanto mi viene in mente quanti hanno detto all'epoca che il tritolo si era messo Falcone, quante persone anche addette ai lavori hanno detto questa cattiveria, perché Falcone era un uomo poco amato anche da gente che faceva lo stesso suo lavoro, perché Falcone era molto invidiato, perché aveva una marcia in più, era una persona intelligente che riusciva a capire le cose prima degli altri. E intanto è ovvio che ci possono essere stati degli interessi ad eliminare Falcone, e non solo quelli di Cosa Nostra in senso stretto. Ancora è presto a parlarne, però è un'ipotesi che sicuramente non è campata in aria. Un'ipotesi che forse potrebbe essere collegato a quanto da mesi ormai si sta cercando di scoprire sulla presunta trattativa tra Stato e mafia. Non c'è stata mai una separazione netta tra Stato e mafia, cioè ci sono stati sempre contatti, cioè lo Stato per le mafie non è un nemico da abbattere, ma ci sono stati sempre accordi con uomini delle istituzioni, tra rappresentanti dell''Ndrangheta e uomini delle istituzioni, ci sono stati sempre punti di incontro e di scambio per affari o per interessi comunque convergenti. E tra le due diverse sponde dello stretto invece questo possibile scambio cocaina per tritolo, questa possibile presenza anche di un ruolo, sia pur marginale, dell''Ndrangheta nella strage di via D'Amelio? Le cose che le posso dire è che i rapporti tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra sono stati molto stretti da decenni, da sempre segnaliamo rapporti, incontri di 'ndranghetisti a Palermo o di uomini di Cosa Nostra in Calabria. Ad esempio Rina veniva spesso in Calabria vestito da prete per incontrarsi con uomini di Cosa Nostra ad Africo o a Gioia Saionica in provincia di Reggio Calabria. C'era una cosca in particolare che aveva un canale privilegiato con i corleonesi, con la mafia di Totò Riina. L''Ndrangheta di Africo, che aveva rapporti con Cosa Nostra, ma anche quella di Siderno, anche quella di Gioia Saionica.